Letture di Radio 24. Ogni 100 multe elevate, i comuni e lo Stato ne incamerano soltanto 20 e gravate dai costi di riscossione. Nasce da qui l'idea bipartisan di garantire uno sconto a chi, appena multato, provvederà a pagare la contravvenzione in poche ore a un qualsiasi sportello bancomat. Il vantaggio sarebbe per lo Stato e il risparmio per i cittadini. Uno sconto tra il 10 e il 20% per chi trova la multa sul cruscotto dell'auto e decide di pagarla subito via bancomat. L'idea bipartisan, spiega il capogruppo del PD in Commissione Trasporti alla Camera, Michele Meta, di una norma ad hoc con sconti da definire ma tra il 10 e il 20%, è emersa nella discussione in Commissione Trasporti sulla delega al Governo per la riforma del codice della strada. E non è detto che resti solo un'ipotesi. Sullo sconto agli automobilisti meno fortunati c'è infatti, spiega Meta, un orientamento unanime. Già ne avevamo parlato in discussione generale e la riteniamo giusta. I tempi sarebbero strettissimi. Il sì al tagliamulte, come è stato ribattezzato, almeno della Camera, potrebbe arrivare entro la pausa estiva. Stiamo pensando, spiega il presidente della Commissione Mario Valducci, a una proposta sulla quale procedere per avere un ok in tempi rapidi alla Camera e far sì che diventi legge entro l'anno. Valducci parla di un'ipotesi di sconto per chi paga subito la multa del 10%. In Italia, spiega Valducci, su 100 multe fatte, quelle realmente incassate sono 20, con annesse le spese per incassarle, per cui si tratta di un dispendio di risorse enorme. Trovando un meccanismo in cui i comuni e lo Stato incassano subito, ma con uno sconto per chi ha commesso l'infrazione, può essere un bene sia per lo Stato, visto che ogni anno dalle multe arrivano 2 miliardi, sia per il cittadino, al quale viene data la possibilità di uno sconto. Il tagliamulte potrebbe così alleggerire il conto a carico degli automobilisti, che tra caro benzina, caro assicurazioni e aumenti vari si trovano a pagare sempre di più. E le multe scontate potrebbero aiutare. Secondo gli ultimi dati forniti dall'ACI, i comuni capoluogo hanno incassato dalle multe stradali 1,14 miliardi di euro nel 2010 e le famiglie italiane hanno speso 170 miliardi di euro per l'auto nel 2011. Obblighi, divieti e limitazione della circolazione nel centro abitato sono stati contestati ai cittadini con 8 milioni e 541 mila casi messi a verbale. La fermata e la sosta fuori e dentro i centri abitati sono il secondo tipo di infrazione più effettuata. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Multe scontate per chi paga subito col Bancomat, pubblicato dalla Stampa di mercoledì 11 luglio. Se il mercato dell'auto nuova è al tappeto, non va di certo meglio all'usato. A giugno le immatricolazioni del nuovo sono crollate del 24,4%, ma anche i passaggi di proprietà dell'usato sono diminuiti del 12,8% rispetto all'anno precedente. I dati sono riportati nell'ultimo bollettino mensile Autotrend, l'analisi statistica dell'Automobile Club d'Italia. Un risultato preoccupante che conferma l'inversione di tendenza di un settore, quello dell'usato, che fino a pochi mesi fa riusciva a resistere alla crisi. Ora le case automobilistiche puntano su nuovi modelli a misura di famiglia, abbastanza capienti ma non ingombranti, adatti alla città ma sicuri anche per occasionali viaggi autostradali, con design accattivante ma senza il costo delle vetture di lusso. In un momento difficile per l'automobile, ma anche per le due ruote, soprattutto nel vecchio continente, con vendite in picchiata anche a causa di una crisi economica epocale, si fanno largo nuovi modelli, inedite proposte e paradigmi di vetture più vicine alle esigenze delle famiglie e adeguate a budget più risicati e a una voglia di auto in discesa. L'appena nata Fiat 500L si pone in prima fila nella nuova generazione di auto formato famiglia. Vetture che non sono enormi e imparcheggiabili e con motori di elevata cubatura, bensì sono grandi quel tanto che basta da essere comode in un viaggio e pratiche nel caos cittadino. E motori piccoli significa ridurre le spese di carburante e di assicurazione. Insomma, sono auto da famiglia che abbattono il costo totale del possesso, quello che gli anglofili indicano come total cost of ownership, ma è traducibile efficacemente come bolletta auto per le famiglie. L'automobile dunque ora deve costare meno ma non può essere un brutto elettrodomestico. Ed ecco che modelli come la citata nuova crossover Fiat, che fa della simpatia una delle sue armi migliori, o come la Ford B-Max, sono pensati appunto per essere multiruolo, pratici, razionali, ma non per questo privi di appeal. In fondo l'automobile si compra ancora con il cuore e con gli occhi. Vetture come queste trasformano e fanno evolvere non solo il concetto di monovolume compatto, ma espandono gli orizzonti commerciali del segmento B oltre alla classica berlina 5 porte compatta, per andare a sovrapporsi alla categoria superiore in virtù della dotazione e capacità di trasporto. In alcuni casi ammiccano anche, vista l'altezza da terra, al concetto di SUV urbano. Insomma, sono veri incroci, crossover appunto. Sono macchine intelligenti e furbe che da una parte sono trendy, dall'altra giocano le carte migliori sul fronte dei costi di acquisto e di esercizio. E così possono divenire l'unica macchina della famiglia, perché adesso, con l'aria che tira, è difficile mantenere due auto. Auto del genere non fanno rimpiangere una grande station wagon o un monovolume stile pullman che si può parcheggiare solo in un centro commerciale, quando è chiuso però. E all'interno l'ambiente è pensato per essere moderno e piacevole. Schermi touch e integrazione facile con il telefonino. Insomma, in un momento di crisi, l'industria continua a muoversi, moltiplica gli sforzi per reagire. A fine settembre aprirà i battenti il Salone di Parigi e già ora si annunciano tante novità, dalla Renault Clio a soprattutto la nuova Volkswagen Golf, settima generazione di un bestseller che questa volta però non si trova a vincere facile, surclassando le solite concorrenti europee che pur fanno numeri elevati, ma tanto poi vince la tedesca perché la Golf è sempre la Golf. Ora il colosso di Wolfsburg dovrà vedersela con due coreane, Kia Ceed e Hyundai i30, che hanno colmato il gap per design, tecnologia e qualità. La prossima partita in questo segmento sembra essere proprio Germania-Corea. E i coreani hanno già dimostrato in altri settori di che pasta sono fatti e cosa sono capaci di fare quando decidono di scardinare un mercato. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Mario Cianflone «Ritorna l'auto formato famiglia», pubblicato dal Sole 24 Ore di martedì 10 luglio. I confini d'Europa lambiscono a sud il bacino del Mediterraneo, un mare che ha accolto nei millenni le influenze delle maggiori civiltà, da quella persiana ed egiziana fino alla greca e latina. Anche per questo si è meritato il suo nome, Mediterraneo, che significa posto al centro delle terre, come a indicarne la sua funzione catalizzatrice. Quei tempi sono lontani. Oggi il Mediterraneo è una frontiera e i paesi che si bagnano sulle sue coste sono, sia a sud che a nord, in difficoltà e oramai lontani dal centro del mondo. Il passato del Mediterraneo ha visto e vissuto numerosi periodi di pace e di guerra. Il mondo latino era orgoglioso di aver imposto sulle nostre sponde un'epoca eccezionale, quella della Pax Romana, forse la più lunga pace nel passato del Mare Nostrum. Abbiamo conosciuto, invece, innumerevoli scontri fra stati, nazioni, fedi, città, regioni. Lasciando alla storia di lunga durata le enumerazioni abituali di questi eventi, che vanno dalla preistoria ai tempi moderni, ci siamo confrontati anche nella nostra epoca con varie fratture. Fratture che si trasformavano in tensioni o addirittura in conflitti bellici. Maghreb, Mashrek, Spagna, Grecia, Cipro, Balcani, ex Jugoslavia, Palestina. L'immagine che da tempo ci offre il Mediterraneo non è affatto rassicurante. La sua riva settentrionale presenta un ritardo rispetto al nord Europa e altrettanto la riva meridionale rispetto a quella europea. Tanto a nord quanto a sud, l'insieme del bacino si lega con difficoltà al retroterra continentale. In alcuni momenti non fu davvero possibile considerare questo mare come un insieme, senza tener conto delle fratture che lo dividevano, dei conflitti che continuano a dilaniarlo. Questo nostro mare assomiglia già da tempo a una frontiera marittima che si estende dal Levante al Ponente, separando l'Europa dall'Africa e dall'Asia Minore. Le decisioni relative alla sorte del Mediterraneo sono state prese, tante volte, al di fuori di esso o senza di esso. Ciò genera frustrazioni e anche fantasmi. Le frammentazioni vi prevalgono da tempo sulle convergenze. Si profila all'orizzonte, non soltanto nella nostra epoca, un pessimismo storico. Siamo stati più di una volta testimoni, anche sulle sponde meridionali dei paesi europei, di un crepuscolarismo particolare. Le coscienze mediterranee si allarmavano e ogni tanto cercavano di organizzarsi, cercando di includere anche le sponde africane. Le loro esigenze hanno suscitato nel corso degli ultimi decenni numerosi piani e programmi. Le carte di Atene, di Marsiglia e di Genova, il piano d'azione per il Mediterraneo, il PAM, e il piano blu di Sofia Antipolis, che proiettava l'avvenire dell'intero Mare Nostro all'orizzonte del 2025. Le dichiarazioni di Tunisi, Napoli, Malta, Palma di Maiorca, le conferenze euro-mediterranee di Barcellona, Malta, Palermo. Simili sforzi, lodevoli e generosi nelle intenzioni, stimolati o sorretti più di una volta da commissioni governative o da istituzioni internazionali, non hanno conseguito che risultati scarsi e limitati. Il Mediterraneo si presenta da tempo come uno stato di cose, ma non riesce a diventare un progetto. Avete ascoltato la lettura dell'intervento del professor Predrag Matvejevic, L'Europa è nata senza la sua culla, pubblicato dal Messaggero di martedì 10 luglio.